Come va suo figlio? Ma che te sta fai? Vieni più su internet. Ma no, sto giocando a piccicaccio. Attendere, prego. 47esima Napoli, 45esima Juventus, 41esima Fiorentina, 41esima Inter, 35esima Roma, 33esima Milan, 32esima Sassuolo, 32esima Empoli, 31esima Lazio, 27esima Chievo, 26esima Torino, 26esima Bologna, 26esima Atalanta, 25esima Palermo, 24esima Udine, 23esima Genoa, 23esima Sampdoria, 19esima Carpi, 16esima Frosinone, 10esima Verona. Attendere prego. Grandi veggenti d'Italia, siamo un'equipe di astrologi, di cartomanti, atti a risolvere i vostri problemi ed aiutarvi a risolvere i vostri problemi. Attendere, prego. A sole 399.000 lire più IVA. Ecco il computer più forte del mondo. Monitor, tastiera, registratore, joystick. Attendere, prego. Stereo Hi-Fi, 7 testine, telecomando con 500 funzioni e titolatrice. Vuole una spindarella a livello software? Per 2, per 4, per 8, per 16. Perché non te la compri?